2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, bentornati ai nostri ascoltatori e benvenuti a chi non ci conosce. Siamo in onda questa sera in diretta, normalmente siamo nei nostri studi a Milano, questa sera invece siamo in diretta in una bella serata fresca ma molto divertente qui al Salone dell'Automobile di Torino, al Parco del Valentino. Ci sono veramente tante automobili, noi questa sera vi raccontiamo come l'automobile si sta trasformando. C'è chi dice che dal punto di vista tecnologico nei prossimi 10 anni succederà molto di più di quello che abbiamo visto negli ultimi 100 anni. Chissà che cosa ne pensano i nostri ospiti. Allora, sono due i nostri ospiti che abbiamo in studio, allora ve li presento. Massimo Cavazzini, che è Head of Connected Services di FCA, cioè Fiat Chrysler Automobile, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Detta in maniera più semplice, responsabile dei servizi di autoconnessa, giusto? Corretto. Bene. EMEA, lo dicono gli esperti, è la regione europea più qualche cosa più che sta attorno. Medio Oriente e Africa. Okay, che quindi è un mercato molto molto importante. A fianco a te c'è Gerard Albertengo, che è fondatore di JoJob. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Voi fate carpooling aziendale, detto poi ti lascio, abbiamo un po' di tempo per spiegare e raccontare di cosa si tratta. Che cosa fate? Esattamente, carpooling aziendale significa la condivisione dell'auto privata per gli spostamenti casa-lavoro. Quindi quegli spostamenti che tutte le mattine faccio per raggiungere la mia sede del lavoro e alla sera tornare a casa, ecco che lì si può fare in carpooling in modalità condivisa. E c'è qualche milione di italiani che lo fa? Ci sono 18 milioni di pendolari solo in Italia. Allora, di questo parleremo tra poco, poi saranno con noi altri ospiti che saranno collegati con noi. Prima vorrei dedicare pochi minuti ad un tema, uno dei grandi temi di cui abbiamo parlato 2024, c'era tantissima attesa. Sono stati pubblicati finalmente i bandi per, a parte il gioco di parole, i bandi per la banda larga. Comunque questo è un grande progetto che sta partendo. Allora, abbiamo sentito Alessio Beltrame, che è capo della segreteria del sottosegretario Giacomelli, che si occupa proprio delle telecomunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico. Allora facciamo un breve punto su un tema su cui torneremo. Pochi minuti e poi parliamo di automobili. I bandi permetteranno di costruire la rete pubblica, che rimarrà di proprietà pubblica, in tutte le aree bianche del paese, quindi in tutte le regioni. I bandi saranno più di uno. In questo primo bando, che è già stato lanciato, sono interessate 6 regioni. Questa rete cosa ci permetterà di fare? Ci permetterà di costruire una rete passiva e attiva, ma di tipo wholesale, che sarà messa a disposizione poi a tutti gli operatori TLC che vorranno fornire i servizi agli utenti finali. Stiamo parlando di una rete che solo nel primo bando interesserà 3.000 comuni, interesserà 6 milioni e mezzo circa di cittadini, più di 7 milioni di edifici fra abitazioni, imprese e pubblica amministrazione. E il progetto complessivo per le aree bianche invece interesserà qualcosa come 7.300 comuni, cioè le aree bianche si trovano in 7.300 comuni e quasi 14 milioni di cittadini. Le faccio una domanda sui tempi. Per questo primo bando, quali sono i tempi e anche i tempi di realizzazione di questa infrastruttura e quali saranno i tempi dei prossimi bandi? Come sapete, il primo bando, questa parte di pre-qualifica, si terminerà il 18 di luglio, dopodiché ci sarà poi la richiesta delle offerte ai vari soggetti che potranno partecipare e da lì poi partirà assegnato, diciamo, individuato il vincitore per ogni lotto di gara del bando, inizierà la progettazione e poi quindi la realizzazione da qui al 2020. Ripeto, stiamo parlando di 3.000 comuni che saranno suddivisi in 4 fasi realizzative che ci accompagneranno da qui al 2020. Entro l'estate, come è stato annunciato già dal Presidente del Consiglio, partiranno anche tutti gli altri bandi e quindi saranno interessate le altre regioni. Senta, se un cittadino che ci sta ascoltando vuol sapere se abita in queste zone, come fa? Allora, intanto le aree bianche sono già pubblicate sul sito di Infasi in questo momento, quindi le aree bianche sono già un quadro conoscitivo noto, cioè dove lo Stato interverrà, perché lo Stato interviene in tutte le aree bianche, quindi non ci sono delle esclusioni, ci sono dei tempi realizzativi diversi, evidentemente. Però diciamo, nei prossimi giorni, lo dico una cosa che in anteprima, diciamo, noi stiamo lavorando ad un sito che centralizzerà tutte le informazioni sulla situazione infrastrutturale dal punto di vista della connettività, ci sarà evidenza di tutti i bandi, di tutte le aree bianche, quindi un cittadino potrà andare lì, indicare, cercare il comune di appartenenza e vedere il proprio comune se è interessato da interventi previsti da parte degli operatori privati o se è interessato da interventi previsti dal pubblico. E faccio un'ultima domanda sulla fibra ottica, visto che si è parlato molto di fibra ottica, tutti parlano di fibra ottica, ma sappiamo che alcuni operatori stanno utilizzando ancora il vecchio rame. Questa infrastruttura nuova, cioè i soldi che lo Stato mette a disposizione, sono per fibra ottica o non è detto? No, noi abbiamo sempre detto il piano è un piano molto ambizioso. L'obiettivo del governo è quello di costruire la rete del futuro, cioè una rete che possa portare e servire i cittadini da qui ai prossimi decenni. Abbiamo indicato nei bandi quelli che sono gli obiettivi di qualità di questa rete. Quindi parliamo di nel cluster C, nei cosiddetti comuni sopra le 2500 unità abitative, di un'infrastruttura che permetta servizi oltre load e 50 in upload e tutto il resto del paese con un servizio ad almeno 30 megabit di download e 15 megabit in upload. Poi è lasciato agli operatori, a chi partecipa ai bandi, trovare le migliori soluzioni tecnologiche che mantengano ovviamente questo standard qualitativo. Ed è evidente che l'obiettivo è quello di far sì che la fibra si sviluppi sempre più nel paese, anche perché la fibra non serve solamente per dare i servizi in banda ultra larga. Noi davanti abbiamo la prospettiva del 5G, ogni operatore sa che il 5G avrà comunque bisogno di fibra. Oggi la fibra arriva solamente, e non da tutte le parti, alle porte dei comuni. Adesso noi dobbiamo creare la rete di accesso, quindi estendere il più possibile all'interno dei comuni la fibra. Ebbene, questa era la voce di Alessio Beltrame, capo della segreteria del sottosegretario Giacomelli. Questo è un tema su cui naturalmente torneremo. Il caso ha voluto che il telefonino avesse un piccolo buco proprio quando diceva 100 megabit in download, quindi le misure sono quelle, 100 megabit in download, in download, 50 in upload, 30 e 15, ma questo è un tema su cui ovviamente torneremo. Allora, siamo in diretta in questa serata dal Parco del Valentino, siamo a Torino nel nostro studio esterno. Pietro Lacorte si occupa della parte tecnica qui con noi a Torino, con Davide Cioce che segue tutto dall'alto della sua regia. Allora, stiamo parlando di automobili. Prima di arrivare nel futuro, parliamo dell'oggi. Uno dei modi per connettere la macchina, visto che si parla di connected car, lo chiedo a Massimo Cavazzini, è diciamo, il primo modo è connetterla tramite lo smartphone, che è una cosa che abbiamo oramai tutti, e in buona parte delle automobili in un modo o nell'altro si può connettere lo smartphone. Sì, ormai un paio d'anni c'è questa tendenza nel momento in cui la gente vuole essere sempre connessa, anche quando guida. Per motivi di sicurezza abbiamo deciso di creare delle tecnologie sulle nostre radio che permettono di ricreare l'esperienza delle app che hai sul telefonino mentre guidi, in maniera sicura e non distraente. Quindi già oggi sulle nostre macchine nuove è possibile ascoltare una radio via internet, i podcast di 2024, avere una voce che ti legge le notizie principali della giornata o quello che è il tuo wall di Twitter, fino ad arrivare agli applicativi che permettono una miglior gestione della macchina, quindi ti dicono in tempo reale se stai guidando eco oppure se sei fuori strada ad esempio con una Jeep, come stai guidando, ti danno dei consigli, fino ad arrivare agli applicativi per una migliore manutenzione. Una macchina che è manutenuta in maniera ottimale consuma meno, è un aiuto all'ambiente. Quindi in questo momento, grazie al telefonino e alla connettività, siamo in grado anche di aiutare il cliente nel momento in cui abbia qualche problema. Allora, tu hai citato l'intrattenimento, che è un tema, magari dopo torneremo, però sono curioso, vorrei sapere queste app che ti fanno capire come guidi, come funzionano e soprattutto I dati dove li prendono? Cioè sono gli accelerometri nello smartphone o sono dati che arrivano dall'automobile? Rispetto a degli applicativi sul telefono, ovviamente il vantaggio di essere un costruttore è che abbiamo accesso direttamente ai dati del motore mentre guidi, quindi sostanzialmente sono dati creati e generati dalla macchina, vengono analizzati tramite algoritmi proprietari. Noi, il cosiddetto Eco Drive, è un'applicazione ormai lanciata nel 2009, quindi è tanti anni, abbiamo più di 40 milioni di viaggi nel nostro server. In tempo reale c'è un algoritmo sulla macchina che ti analizza lo stile di guida, l'accelerazione, la decelerazione, la velocità, il modo in cui tu approcci le curve e le rotonde, ad esempio, quindi il cosiddetto coasting, e ti dà un punteggio. Poi, grazie al telefonino, questi dati vengono trasferiti nel cloud, nella nuvola, e nella tua app del telefonino, quando sei a casa, puoi analizzare il tuo stile di guida, vedere quanto hai consumato, quanta CO2 hai risparmiato, sfidare gli amici e sostanzialmente migliorarti, quindi è un incentivo a migliorare. Ovviamente la declinazione delle applicazioni dello stile di guida viene fatta poi per la pista, per Alfa Romeo, per Abarth, per l'off-road, il fuoripista con Jeep, e quindi ogni brand poi ha una declinazione specifica. Senti, ho letto in questi ultimi giorni, ho fatto un po' di letture sul tema auto connessa, auto del futuro, eccetera eccetera, e mi ha un po' sorpreso, a proposito di dati, che uno scrivesse che un'automobile genera 30 gigabit di dati all'ora. Ma è possibile? È verosimile? No, è assolutamente soprattutto sugli ultimi modelli, dove l'elettronica ormai è preponderante. Si creano e girano, diciamo, molti dati, tanto che le reti delle auto ormai stanno migrando verso l'Ethernet, perché c'è bisogno di velocità tra sono tutti i sistemi. Broadband anche le... Assolutamente. È ovvio che poi negli anni la connettività e la banda larga permetterà di trasmettere tutto o parte di questi dati generati per una serie di applicazioni. Quindi non solo quelli che citavamo prima, ma pian piano si creerà una sorta di marketplace in cui gli sviluppatori nel mondo potranno inventarsi nuovi servizi e andare a offrire direttamente durante la guida degli applicativi che miglioreranno lo stile di guida, piuttosto che ti aiuteranno a divertirti mentre guidi o quello che può essere un po' lo stile dello smartphone. Sì, cioè quindi voi dite, noi mettiamo a disposizione, è un'ipotesi futura di tutti i produttori, immagino, noi mettiamo a disposizione quello che l'auto genera in termini di dati e, cari sviluppatori, se vi vengono in mente delle idee possiamo collaborare? Questo è quello che è uno degli scenari plausibili, ovviamente. Il vantaggio di lavorare direttamente col costruttore è che ovviamente noi mettiamo non solo la parte di sicurezza, non distrazione durante la guida, mettiamo anche l'esperienza ovviamente dei nostri sistemi. In un mondo in cui la macchina è sempre più complessa, quindi hai sistemi che ti aiutano a guidare meglio, a non sbagliare corsia, a frenare e non tamponare, è ovvio che si possono generare da questa mole di dati dei servizi che oggi non siamo in grado di prevedere. Di immaginare, certo. Ma voi produttori, che cosa ve ne fate di tutti questi dati? Almeno dici quello che ci puoi dire, perché quello sostanzialmente quello che sono le tre, io direi, tre filoni principali. Il primo è restituire all'utente, come al guidatore, al cliente, una serie di parametri che possono aiutarlo nella gestione di tutti i giorni della macchina, se sostanzialmente, non dimentichiamo, il traffico, ad esempio, il traffico in tempo reale che ti può aiutare a evitare gli ingorghi o gli incidenti. C'è già oggi con varie fonti. Il secondo tema è avere un'analisi dei dati per migliorare i prodotti, quindi invece che fare ipotesi e studiare dei prodotti basati appunto su un teorema o della teoria. Quindi è la Internet of Things. È la Internet of Things. Già oggi, grazie all'Eco Drive, siamo in grado di vedere il motore, come agisce e lavora nella realtà di tutti i giorni, e quindi progettare motori migliori. Sì. Il terzo filone, ovviamente, come dicevo prima, è la comunità di sviluppatori e di aziende che possono, grazie a questi dati, migliorare il loro business o creare dei business nuovi. Mi viene da citare il mondo delle assicurazioni, che già oggi, grazie ai dati telematici, riesce a gestire incidenti e a migliorare la sicurezza. Senti, il tema intrattenimento, visto che sul mercato sono già arrivati, ma diciamo stanno arrivando, perché se noi immaginiamo questi scenari rispetto ad una popolazione mondiale anche in termini di automobili, stiamo parlando ancora di un'evoluzione per pochi, ma nei prossimi anni vedremo invece queste tecnologie diventare molto popolari. Allora, sul mercato sono entrati Apple e Google. Che tipo di rapporto c'è tra il costruttore Apple e Google, che sono molto potenti, affamati di dati, e quindi quali sono gli scenari futuri che ci possiamo immaginare? Ma in questo momento noi abbiamo lanciato, in questo momento ci sono due macchine, la Fiat Tipo e la Fiat 500S, che integrano già i sistemi CarPlay, Android Auto sulla nuova radio, quindi nei prossimi mesi i clienti potranno connettere il loro telefonino e utilizzare parte degli smartphone. Quella che è la collaborazione futura, direi che è un mondo da scoprire, sostanzialmente senza arrivare alla macchina autonoma, ma anche nella fase intermedia è ovvio che c'è un mondo della consumer electronics che cerca di entrare in automotive e un mondo dell'automotive che cerca di imparare e migliorare anche in termini di velocità di sviluppo, e quindi ci saranno sicuramente delle collaborazioni interessanti con queste grandi aziende. Non la vedrei come guerra, ma come collaborazione, opportunità di nuovi servizi per il cliente. Certo, comunque è indubbio che questi player, ma molti altri player della cosiddetta, chiamiamola, Silicon Valley, stanno un po' cambiando gli scenari, sono tra i motori di questo cambiamento, e nei prossimi anni sicuramente vedremo un cambiamento ancora più forte, ancora più rapido. Però ti immagini che possiate diventare anche dei produttori di intrattenimento, o l'intrattenimento lo continuano a fare quelli che fanno intrattenimento? Io credo che in questo scenario, che ne so, un produttore di automobili potrebbe mettersi a fare dei programmi radiofonici, offrirli ai propri guidatori che diventano ascoltatori, un po' come alcuni dicevano, poi non è successo. Nel mondo delle smart TV, i produttori di televisori potrebbero diventare broadcaster, cioè fare programmi televisivi perché hanno una base installata incredibile. Poi non è successo. Quindi. Io credo che i prossimi passi in realtà saranno appunto portare l'esperienza del costruttore di auto nell'integrazione di queste nuove tecnologie. Non credo che produrre contenuti diventerà il mestiere, ma il mestiere di abilitare una migliore esperienza del cliente. Quindi ipotizza anche solo oggi, quando cambi un telefono, semplicemente fai un login, metti login e password, e anche se hai cambiato telefono dal cloud, dalla nuvola, tu hai i tuoi settaggi scaricati. Ecco, noi stiamo lavorando perché succede anche in macchina, quindi quando tu cambi la macchina avrai le tue destinazioni preferite, la rubrica del telefono, e quindi questo è il passo. Obiettivamente non credo si arriverà a una produzione di contenuti. Adesso cominciamo ad allargare il quadro che stiamo disegnando ad alcuni servizi che cambiano anche il modo con cui i consumatori si approcciano e si avvicinano al mondo delle automobili. Abbiamo parlato poco fa di carpooling aziendale, allora vorrei riprendere questo con Gerard Albertengo, che è fondatore nonché amministratore delegato di JoJob. Beh, innanzitutto, perché avete chiamato questa JoJob? Cosa c'entra? JoJob, la ricerca del nome è stata molto travagliata, e in realtà è anche un aneddoto questo, mi è venuto in mente proprio in piena notte, quindi ho svegliato quella che era ai tempi la mia compagna e gli ho detto: ho trovato il nome. Perché? Perché ho pensato allo yo-yo, lo yo-yo che fa avanti e indietro in continuazione, che è esattamente ciò che fanno i nostri pendolari per 220 giorni l'anno, casa, lavoro, lavoro, casa, avanti e indietro. E abbiamo detto che sono 18 milioni di italiani. Allora, voi siete nati pensando al carpooling, alla BlaBlaCar, lo diciamo visto che molti la conoscono. E però a un certo punto ho detto: no, bisogna che cambiamo un po' strada. E questa è una cosa bella, soprattutto dalla startup, la velocità con cui si cambia. Esattamente, questa si è rivelato, ma lo è sicuramente un requisito che ogni startup deve avere: la capacità di avere una visione di un mercato che ancora non esiste, capire che sta cambiando e che magari non si è pronti a inseguirlo. Il nostro caso è stato questo: noi siamo nati nel 2011 con Bring Me, una piattaforma di carpooling esattamente tale quale quella che è oggi BlaBlaCar, salvo features e tool aggiuntive. È divenuto un portale di grande utilizzo, aveva 17.000 viaggi a settimana in partenza, ma quando un colosso come BlaBlaCar, ottenendo dei fondi ingenti in Francia, è arrivato in Italia, ovviamente la sua massa critica, la sua forza ci ha costretto a rivedere le nostre strategie, a renderci conto che non potevamo offrire quel servizio in maniera efficiente, ed ecco che le scelte erano due: o si chiudeva o riuscivamo a prendere ciò che di buono avevamo fatto. Noi eravamo bravi nel gestire i pendolari, avevamo una tecnologia sull'applicazione mobile unica. Ecco, dall'unione di queste due tecnologie e competenze è nato JoJob, un servizio per un target che oggi non è servito, o meglio, inizia a esserlo servito da JoJob. Sì. Mentre anche in Europa non vi è un servizio simile. Quanti sono i vostri clienti? Poi spiegami, in realtà voi, per voi i clienti sono le aziende, ma quanti sono gli utenti? Allora, ad oggi sono oltre 85.000 i dipendenti in Italia che hanno come alternativa di trasporto JoJob carpooling aziendale. Allora, spiegaci come funziona. Allora, ve lo spiego in tre passi. Il primo passo è la piattaforma. Qui abbiamo dovuto reinventare un modo di fare carpooling. JoJob ragiona per punto di destinazione, cioè qualunque utente registrato a JoJob, quindi immaginiamo il dipendente di una grande azienda, abbiamo qui Fiat, quindi citiamola, un dipendente in Mirafiori può vedere su JoJob, se l'azienda ha tirato il servizio, tutti i suoi colleghi, da dove partono, con quali orari, con quali mezzi, in quali giorni, e crearsi una rete come fosse un social network, i miei gruppi di colleghi. Ma non solo, io vedo anche il tabaccaio di fronte a Fiat o i 1000 dipendenti dell'azienda di rimpettaia. Quindi tutti quelli che raggiungono quell'area al mattino io li vedo su una mappa e mi ci posso mettere in contatto con un click. Da lì in poi organizzo i miei equipaggi. Quindi puoi andare a lavorare anche col tabaccaio. Col tabaccaio, perché? Se perché fa la stessa strada, certo, stesso se orario. Se il tuo collega ti è antipatico, tu dici, no, voglio fare il viaggio, anche il viaggio col mio collega, vado col tabaccaio. Guarda, sotto l'aspetto sociale, può essere antipatico come può essere quella carina dell'ufficio di fronte che grazie a JoJob riesco a conoscere e magari a tenere pure un passaggio. Certo, tutte le mattine posso provarci. Aspetti tecnologici. Poi, questo è l'aspetto principale. Dopodiché noi avevamo un'applicazione, l'ho citata prima. La nostra applicazione invece è in grado di misurare il fatto che noi stiamo facendo carpooling, cioè di dimostrare che noi siamo in auto assieme e abbiamo percorso X chilometri. Questo ci permette, da un lato, di premiare gli utenti migliori, cioè coloro che utilizzano maggiormente il carpooling. Lo facciamo noi e lo fanno le nostre aziende cliente, cioè danno degli incentivi ai dipendenti. In secondo luogo siamo in grado di avere una misurazione precisa del risparmio energetico ambientale che l'azienda ha generato istituendo un servizio di carpooling. E questo è estremamente rilevante, è stata forse la chiave di successo di JoJob. Sì. Poi ti chiedo come fate i soldi, che è un elemento molto importante. Nicola De Mattia, che è l'amministratore delegato di Targa Telematics, è collegato con noi. Benvenuto. Buonasera a tutti. Dunque, De Mattia, adesso facciamo un ulteriore passo su un mondo che si è trasformato molto grazie ad alcuni servizi che sono stati lanciati recentemente in alcune città, penso a Milano, ma noi siamo a Torino. Anche a Torino esistono delle proposte interessanti di car sharing, che è un'evoluzione del mondo della mobilità molto, molto interessante, e voi l'avete estesa anche al mondo delle aziende. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto sommato la condivisione delle vetture non è un bisogno che è emerso recentemente, c'è sempre stato all'interno delle aziende, però è sempre stato gestito in maniera piuttosto macchinosa e inefficiente. L'ausilio di queste tecnologie può fare realmente la differenza nell'allargamento dell'utilizzo della condivisione delle vetture all'interno dell'azienda e soprattutto supporta per il corretto dimensionamento della flotta stessa e in più coadiuva nella gestione di tutta quella che è il monitoraggio e i servizi accessori per la gestione appunto dell'asset veicolo. Ci fa un esempio di che cosa può fare un'azienda col car sharing aziendale e soprattutto tramite quali tecnologie? Ma le tecnologie sono quelle legate da un punto di vista fisico all'installazione di black box ed altri tipi di accessori elettronici all'interno delle vetture e poi connesso un sistema di prenotazione per quello che è l'utente finale che necessita di fissare l'utilizzo del veicolo per le proprie esigenze di trasporto. E poi una piattaforma di servizi che servono al fleet manager sostanzialmente per gestire questo parco vettura in una maniera più efficiente. Quindi vuol dire che queste automobili sono connesse tramite queste scatole nere che sono né più né meno come quelle che vengono installate dalle assicurazioni. Se io devo andare da Torino a Milano posso prenotare un'auto del parco aziendale e in questo modo rendo tutto più efficiente, perché queste automobili poi vengono condivise, cioè domani magari la prende un mio collega e non abbiamo ognuno la propria auto. Assolutamente, funziona esattamente così. Poi, a dire la verità, a seconda delle varie aziende, della specificità anche delle loro attività, vengono implementate policy di utilizzo specifiche in maniera tale che si adattino alle reali esigenze degli utilizzatori. Tipo? Cioè, tipo se l'esigenza di trasporto è più lunga o più corta, se bisogna prevedere una disponibilità delle vetture su piazzali diversi o tornano sempre al medesimo punto di partenza. Ci sono varie tipologie di utilizzi dei mezzi che ovviamente necessitano di vincolare questo tipo di utilizzo a delle regole che poi vengono rispettate appunto per una maggiore efficienza e per rendere fruibile la flotta quanto più possibile al più ampio spettro di utilizzatori. Quante sono le auto connesse in questo modo, cioè messe in condivisione all'interno delle aziende in Italia? Ma diciamo che sono alcune migliaia. Questo tipo di servizio è appena partito, anche se la domanda sta crescendo in maniera vorticosa. Soprattutto la cosa che stupisce è che non riguarda solo le flotte di medie e grandi dimensioni, il che era abbastanza ovvio, ma anche quelle di piccole dimensioni, perché evidentemente la validità, diciamo che i vantaggi portati all'adozione di queste soluzioni si vedono anche con flotte di piccole dimensioni. Possiamo immaginare che ne so, in un distretto industriale aziende diverse abbiano un parco auto condiviso? Sì, in prospettiva senz'altro è uno scenario plausibile. Certo, bisognerà prima che appunto parecchie aziende si dotino di questo sistema di prenotazione e di diciamo gestione del parco vetture. Poi chiaramente tra servizi e piattaforme fruite da varie entità si potrà passare a una condivisione ulteriore. Certo, perché se ce ne sono poche si litiga e non ci si mette d'accordo. Sì. Ma all'interno di un'azienda come si fa però a garantire che ci sia un'auto quando serve? Perché appunto se io ho la mia automobile la posso usare quando voglio, ma se io la metto in condivisione, quindi invece di 100 automobili per 100 dipendenti magari ne ho solo 70 o 30, ci potrebbe essere un momento in cui due hanno bisogno della stessa automobile ma non è disponibile. Diciamo che si parte da situazioni in cui tipicamente le aziende sono in sovracapacità a livello di numero vetture, infatti i tassi di utilizzo, soprattutto ai primi screening che noi effettuiamo, sono veramente bassissimi, quindi non c'è questo tipo di problema. Poi mano a mano il sistema di prenotazioni sa quali sono le vetture disponibili, dove sono, e le blocca per il tempo necessario e indicato dall'utente per le sue esigenze di trasporto. Rimanga con noi De Mattia, abbiamo citato le scatole nere e le assicurazioni. Massimo Cavazzini, cosa potrebbe succedere nel futuro tra un produttore di automobili e le assicurazioni? Si ricollega un po' al tema che dicevamo prima dei dati. Oggi il modello assicurativo principalmente è un modello aftermarket, dove l'assicurazione installa la scatola al cliente che firma il contratto. In futuro, grazie anche alla legislazione sull'e-call, che tra due anni obbligherà sostanzialmente sulle macchine di nuova omologazione ad avere questa scatola per le chiamate di emergenza, in futuro sarà il costruttore a mettere a disposizione per l'assicurazione o per il cliente i dati e permettere quindi la gestione. Quindi avremo il passaggio probabilmente da un modello aftermarket a un modello in cui la scatola è di primo impianto. Questo è molto interessante. Tu hai citato la e-call, dove la E sta per emergency. Chiamata di emergenza sarà obbligatoria su tutti i veicoli venduti nell'Unione Europea nuovi a partire dal 1 aprile 2018. Quindi automaticamente se io finisco fuori strada, mi si ribalta l'automobile, parte automaticamente una chiamata al servizio d'emergenza, l'automobile è geolocalizzata e c'è questa sorta di scatola nera che comunica i miei dati a servizio d'emergenza. Corretto, e quello che succederà è che questa scatola verrà usata ovviamente non solo per la chiamata di emergenza, ma per offrire al cliente, al guidatore e ai passeggeri ulteriori servizi, non solo di intrattenimento, ma appunto di gestione della macchina, di gestione della flotta, e sarà un abilitatore di nuovi servizi, quindi di nuove aziende che potrebbero offrire servizi innovativi di qualsiasi tipo, dal carpooling al car sharing. Sì. Bene, adesso ci fermiamo per qualche minuto, c'è un pizzico di pubblicità, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Riprendiamo questa puntata di 2024, una buona serata, questa sera siamo in diretta in onda dal Parco del Valentino, siamo a Torino al Salone dell'Auto di Torino, ci sono tante persone che visitano questo parco bellissimo, pieno di bellissime automobili tecnologicamente avanzate. Filippo Aureggi si occupa della parte tecnica a Milano, a Torino invece c'è Pietro Lacorte e Davide Ciocia. Volevo, per prima di salutarlo e di concludere con Nicola De Mattia, chiedere come vengono pagati questi servizi di car sharing aziendale. Tipicamente c'è un fee mensile per veicolo. Quindi? Questo è il modello di business sostanzialmente che è già affermato, e che è affermato non solo per i servizi di car sharing aziendale, ma anche per i servizi telematici in genere, ovvero quelli legati alla Internet of Cars, come si chiama secondo le ultime segmentazioni. Esatto, Internet of Things delle macchine, quindi. I veicoli sono dell'azienda o sono di una società esterna? Ma dipende, in genere sono in affitto, nel senso che se consideriamo il dato per il quale l'86% delle medie e grandi flotte italiane sono i veicoli sono acquisiti in noleggio, sì. Conto che molto spesso la modalità è quella. De Mattia, grazie, a presto, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buonasera. Saluto Stefano Besseghini, che è l'amministratore delegato di RSE, ricerca sul sistema elettrico. Buonasera, benvenuto Besseghini. Buonasera, buonasera a tutti. Stiamo parlando di automobili, dell'evoluzione delle automobili, sicuramente i servizi telematici di infomobilità, e poi parleremo anche dei servizi di assistenza alla guida che arriveranno ad un certo punto a prendere il controllo totale dell'automobile, e lì quella diventerà il veicolo automatico. Ne parleremo tra poco, molto brevemente, un accenno, insomma sono temi che un po' conosciamo, però un'altra delle grandi evoluzioni, dei megatrend delle automobili, è quella della propulsione. Ci sono vari temi sulla propulsione, ci sono anche attualmente grossa attenzione sui carburanti alternativi alla benzina e al gasolio, metano e GPL, però sappiamo, insomma, vediamo che sta crescendo molto la proposta del mercato e l'attenzione verso i veicoli elettrici. Besseghini, qual è il problema principale, diciamo, che ci divide dall'affermazione vera e propria di un veicolo elettrico? Solo la batteria? Sicuramente la batteria ha sempre rappresentato una delle maggiori soggetti di ansietà, diciamo così, dell'utente del veicolo elettrico, perché ovviamente ponendo dei limiti di ricarica, di autonomia, di costo, rappresentava una modalità di gestione dell'autoveicolo che è molto diversa dalla user experience che normalmente noi abbiamo. In effetti uno dei motivi per cui adesso l'auto elettrica, magari non ancora nelle vendite in Italia, però in termini di attenzione sicuramente sta crescendo come motivo di interesse, è legato al fatto che questo elemento, quindi la batteria, sta conoscendo significative rivoluzioni tecnologiche. Non c'è forse ancora quel breakthrough tecnologico, quella killing application che ne dimostra, come dire, la conquista del mercato definitiva, però la curva di discesa dei prezzi è sicuramente evidente, L'aumento di intensità di energia che le batterie sono in grado di stoccare è altrettanto evidente, e questo sta obiettivamente portando l'auto elettrica ad essere un oggetto che si guarda con un'attenzione diversa. Peraltro, se voi pensate soltanto 6-7 anni fa, quando noi cominciammo a lavorare sull'impatto della mobilità elettrica all'interno del sistema, non c'era un'offerta automobilistica delle grandi case significativa. Adesso, a distanza di non tantissimi anni, ci sono offerte anche importanti di qualità, per cui chi decide magari con una certa visione, con una certa voglia di utilizzare un veicolo elettrico, in questo momento lo fa anche con un'offerta tecnologica di macchine che sono assolutamente all'altezza. Poi ci sono da tenere presente tutte le offerte che sono legate all'ibridazione, quindi al fatto di avere varie forme di contaminazione di tecnologie differenti, quindi elettrico assistito da motori endotermici, puro elettrico, in seriale, in parallelo, in plug-in, insomma, l'offerta è molto ricca, e questa secondo me è la cosa più interessante, perché dimostra che anche il settore dei trasporti, che è un settore che dal punto di vista, ad esempio, della decarbonizzazione ha fatto dei passi in avanti sicuramente importanti, pensiamo ai vari livelli degli euro 3, 4, 5 e quant'altro, ma non aveva ancora conosciuto quella, diciamo così, complessificazione del mix di tecnologie che si possono impiegare per soddisfare il bisogno di mobilità. E quindi il fatto di vedere nuove tecnologie che entrano in campo evidentemente fa ben sperare per l'immediato futuro. Quale sarà quello vincente? Quale sarà quello che in qualche maniera emergerà rispetto all'offerta per gli utenti? Questo vedremo. Però ad esempio Toyota con l'operazione con l'idrogeno ha fatto anche cadere un altro tabù rispetto all'utilizzo in oggetti guidabili veri di una tecnologia. Sembrava che la tecnologia di idrogeno e le celle a combustibile fossero un po' limitate alla prototipazione, alla sperimentazione di laboratorio. Quindi sì. Senta, le faccio una domanda sulle batterie, visto che all'interno di questo programma noi ci occupiamo molto spesso di consumer electronics e ovviamente di tutto quello che gira attorno allo smartphone. Ormai lo smartphone è diventato il telecomando della nostra vita, ci facciamo moltissime cose, non tutto ovviamente, però insomma molte cose, e in questa puntata abbiamo parlato di automobile e di quanto il legame tra lo smartphone e anche l'ecosistema che c'è nello smartphone si sta trasferendo, si sta unendo al cruscotto dell'automobile. C'è chi ha detto dashboard is the new smartphone, cioè il cruscotto sarà il nuovo smartphone. Le faccio una domanda: esiste un parallelo tra la capacità e anche la riduzione di prezzo delle batterie delle automobili e quelle utilizzate nei terminali di consumer electronics in generale, oppure no? Ma direi che c'è un parallelo molto forte in termini di tecnologia, diciamo, principale che sta all'interno delle batterie. Molte di queste batterie sono soprattutto in questo momento prevalenti quelle al litio, che un po' accompagnano i due sistemi. È ovvio che nel campo della consumer electronics c'è una minore esigenza di potenza, e questo semplifica un po' alcune situazioni rispetto ad esempio all'automotive. Il settore della consumer electronics secondo me sarà ancora più capace e forse più velocemente riuscirà ad introitare alcune innovazioni che stiamo vedendo comparire nel campo delle batterie. Sto pensando ai nuovi materiali come il grafene, a materiali a bassa dimensionalità, sistemi per realizzare nuove forme di contatti con la parte attiva della batteria, che quando si va sui sistemi di potenza, quindi anche dimensionalmente diciamo più significativi, fanno un po' fatica a dispiegarsi, mentre quando vengono nei percorsi produttivi tipici dell'elettronica trovano una rispondenza molto più tecnologicamente efficace. Lei dice che in tempi molto brevi vedremo un cambiamento drastico anche nelle tecnologie, nel mio smartphone, perché il problema della batteria che non arriva a sera è un problema. Sì, questo è assolutamente vero. Sì, io credo che il lavoro che si sta facendo sui materiali è veramente un lavoro molto intenso in termini di ricerca. Faccio facile profeta nel dire che conosceremo qualche significativo ulteriore avanzamento. Nel giro di 1, 2 o 5 anni? Ah, beh, questa è la solita domanda da sfera di cristallo. Però è veramente molto difficile dirlo, perché l'intensità che c'è in questo momento sull'attività di ricerca sui nuovi materiali per le batterie è veramente molto elevata. Quindi potrebbe succedere anche fra 6 mesi, diciamo. Potremmo avere anche sorprese relativamente a breve. Bene, grazie a Stefano Besseghini, amministratore delegato di RSE Ricerca sul Sistema Elettrico. A presto. Grazie a voi, buonasera. Poco fa ho anticipato una domanda a Gerard Albertengo di JoJob: come fate i soldi? Sistema di carpooling aziendale con un'app, i vostri clienti sono le aziende, per far sì appunto che i dipendenti si mettano d'accordo e condividano il viaggio, casa, lavoro, lavoro, casa. Esatto, qui è importante andare a dire quale valore abbiamo trovato, perché i soldi si fanno se si dà un valore. Certo. Il valore sul carpooling aziendale era molto complesso da trovare. In questo caso, con l'applicazione mobile, che è in grado di misurare la riduzione di emissioni inquinanti e quindi di quantificare quanto carpooling viene fatto, l'azienda ha modo di misurare la propria riduzione di impatto ambientale, dando ai dipendenti uno strumento alternativo di mobilità. Quindi da un lato fa un'azione welfare molto importante, dall'altro sta misurando i suoi risultati energetico-ambientali, e questi l'aiutano ad ottenere le certificazioni, dico una, la ISO 14001, piuttosto che a migliorare il proprio bilancio di sostenibilità ambientale. Ecco, dando un valore come questo tipo alle aziende, noi riusciamo a chiedere, a caricare il costo del servizio unicamente su azienda, senza caricare in alcun modo l'utente finale. Certo, e l'azienda che tipo di vantaggi ha, oltre al fatto che appunto può ottenere queste certificazioni? Allora, la certificazione si riflette in un risparmio indiretto notevole. Altri vantaggi sono molto semplici. Immaginiamo il numero di l'assenteismo dettato da imprevisti quali sciopero dei trasporti pubblici piuttosto che indisponibilità dell'auto. Sì. Ecco, in un'azienda nelle grandi dimensioni questi numeri possono raggiungere anche punti percentuali ogni singolo giorno. Sicuramente un sistema di carpooling è un'alternativa e può andarlo a ridurre. Questo è un valore. Come un valore è la diminuzione della pressione sui parcheggi dell'azienda. Molte aziende situate specialmente in ambito urbano hanno un problema di parcheggio. Quindi l'azienda ha tutta una serie di vantaggi indiretti, anche di risparmi indiretti, e tutto ciò a fronte di un costo del servizio JoJob veramente irrisorio. Parliamo di poche migliaia di euro tra attivazione e canone annuo del servizio per un'azienda che ha 500.000 dipendenti. Sì. Ti faccio fare in un minuto un esempio molto bello, a me piacciono questi esempi molto anche divertenti. Voi tracciando i dipendenti potete premiare i dipendenti che utilizzano maggiormente il carpooling e addirittura offrire magari il parcheggio più vicino, aprire il cancello automaticamente. Allora, facciamo due esempi tipici proprio di attualità. Allora, il primo è quello che facciamo noi. Noi premiamo con delle scontistiche, delle promozioni anche molto forti. Abbiamo Gardaland ha un costo di ingresso di 39 euro, i nostri utenti che hanno fatto almeno 1000 km in carpooling ci entrano a 24. Questa è la scontistica che offriamo noi. Questo è promozione. Invece, nata da un'esigenza di un'azienda, oggi siamo in grado di far aprire il cancello di questa azienda quando l'equipaggio ha percorso almeno 25 km in carpooling ed è arrivato di fronte al cancello dove c'è il parcheggio aziendale. Cioè, se ne fatti 22, uno fa 2 km in giro per far aprire il cancello. Deve farli con 3 persone a bordo. Questo gli permette di accedere al parcheggio interno aziendale anziché andarsi a cercare il parcheggio fuori all'esterno. Voi sapete che sono in 3 perché li geolocalizzate con lo smartphone. L'applicazione è in grado appunto di capire che queste persone stanno viaggiando assieme, cioè sono sincronizzate come punti GPS lungo l'intero percorso. E raggiunta l'azienda hanno appunto diritto a questo benefit. Interessante. Allora, questi ultimi minuti li dedichiamo ad un altro grande mondo che sta crescendo, ma che è già disponibile sul mercato. E lo volevo fare con Massimo Cavazzini. Tutti i sistemi di assistenza alla guida, che in qualche modo sono poi legati anche tutto al mondo della telematica di cui tu ti occupi. Tipo, io ho un'automobile con il sistema di frenata d'emergenza, il cruise control adattivo che mantiene la distanza di sicurezza, lo trovo fantastico, ti dà anche molta sicurezza. Però ho la sensazione che questi strumenti siano già diffusi, costino abbastanza poco, ma si conoscano ancora troppo poco. Sicuramente. Intanto cosa sono? Fammi due o tre esempi. Uno è stato appunto citato: la macchina è in grado di mantenere la distanza di sicurezza alla macchina che precede, frenare se c'è un pericolo di collisione, oppure in autostrada adattare automaticamente la velocità. Ce ne sono altri in cui il colpo di sonno, ad esempio, per cui la macchina tenderebbe a uscire di carreggiata, il volante automaticamente sterza e la macchina viene riportata, oppure in fase di sorpasso il cosiddetto blind spot, il punto cieco in cui non riesci a vedere, lo specchietto non riesce a vedere, quindi ti sposteresti di corsia rischiando un incidente, sullo specchietto hai un alert, un avviso, la macchina ti avvisa. Che ti avvisa. Questi sono tutti sistemi che ovviamente si stanno diffondendo, direi, abbastanza rapidamente. Probabilmente ci vorrà insomma una fase di diffusione più spinta, perché le persone imparino a conoscere e apprezzarne il valore. La frenata d'emergenza in città è fantastica, evita i tamponamenti. Con qualche centinaio di euro eviti ovviamente un incidente che può avere, a parte i problemi fisici ovviamente, ma anche danni alla macchina. E questi sono tutti sistemi che pian piano si stanno aggiungendo e ci preparano poi a un'assistenza alla guida sempre più spinta, che ci porterà poi, quando la macchina avrà tanti ADAS e sarà connessa, verso una macchina che ti aiuta a guidare o addirittura guida da sola. Sì. E secondo te questi sistemi si stanno diffondendo? Sono conosciuti già? Sì, si stanno diffondendo. Io, guardando nel nostro esempio, ovviamente se guardi qualche anno fa erano disponibili solo su macchine di gamma elevata, cosiddette premium, sì. Mentre adesso la macchina per la famiglia, la 500L che abbiamo, ha questi sistemi, il Renegade, la 500X, quindi sono sistemi che stanno scendendo pian piano su segmenti sempre più bassi e che quindi diventano disponibili anche come prezzi a un'ampia fascia della popolazione. Sì, perché proprio parliamo di alcune centinaia, almeno per i modelli più, cioè, come dire, per i sistemi più semplici, alcune centinaia di euro. Corretto, sì. Molto poco. Di fatto, aggiungendo maggiore connettività alla macchina, un po' di intelligenza a bordo, un po' più di quella che c'è oggi, quasi quasi il veicolo automatico è già fatto. Sì, diciamo che è una semplificazione forte, perché ovviamente nel momento in cui il veicolo deve guidare da solo ci deve essere una precisione, una reattività e una capacità di reagire agli elementi esterni molto più elevata. Diciamo che i sistemi di assistenza alla guida, gli ADAS, sono un primo passo che ormai è disponibile. È ovvio che per arrivare veramente alla guida autonoma non solo la tecnologia ma anche la legislazione dovrà seguire. Diciamo che la parte tecnologica direi che sta evolvendo a una velocità tale per cui si può prevedere che tra qualche anno si arriverà. Sei d'accordo che nei prossimi 10 anni vedremo cose che non abbiamo visto in termini di evoluzione negli ultimi 100? Sì, assolutamente. Senti, abbiamo parlato di connettività a bordo veicolo. Chi la paga la connettività nei prossimi veicoli che avranno la connessione integrata? La paga il produttore perché ti dà servizi o la pago io come abbonamento? Diciamo che i modelli di business sono molteplici. Quello che stiamo vedendo è che solitamente nel mondo dell'intrattenimento, quindi lo streaming musicale, solitamente continuerà a essere usato il telefono del cliente, perché sostanzialmente ha già una serie di abbonamenti che gli permettono lo streaming musicale. Nel mondo invece dei servizi, sostanzialmente chi beneficerà del valore sarà anche quello che pagherà il traffico. È ovvio che come Mopar, no? Come assistenza dei clienti, il fatto di riuscire a garantire a un nostro cliente l'assistenza in maniera efficace e perfetta ci permette ad esempio di offrire la connettività per garantire l'assistenza. Nel caso delle assicurazioni saranno probabilmente le assicurazioni. Molto bene, io ringrazio Massimo Cavazzini, responsabile dei servizi di connettività a bordo delle automobili nella regione EMEA, in FCA, si dice Fiat Chrysler Automobile, non automobile, come dicono certi, automobile, giusto? Giusto. Corretto. E Gerard Albertengo, che ha fondato e dirige JoJob. Non abbiamo parlato di tutto il mondo delle città, perché voi potreste offrire tutta una serie di servizi anche per le città. Certo, mi spiace non averlo accennato, il pubblico può fare molto. Io ti chiedo una cortesia di poter ringraziare il mio team, no, più che altro ringraziare il mio team, che è quello che ha permesso di realizzare tutto questo, e ringraziare il radio, il minimo che possa fare. Molto bene, grazie a tutti i nostri ascoltatori, trovate tutto anche in podcast, noi torniamo domenica 13:30.